edizione. Sono le 6 e 14 minuti esatte. Una notizia di poco fa, diffusa dal servizio in lingua tibetana dell'emittente Voice of America. Riguarda la vicenda di due nuove autoimmolazioni. Due giovani tibetani si sono dati fuoco per protesta a Lhasa, la capitale, appunto, della regione autonoma del Tibet. Il punto è che sono le prime due autoimmolazioni a verificarsi appunto nella capitale, sono 35 in totale negli ultimi 14 mesi. Altri 33 tibetani, in prevalenza giovani monaci buddisti, si sono tolti la vita in questo modo, proprio per protestare contro la repressione in Cina. Con questa notizia noi adesso diamo la linea alla viabilità, ci ritroviamo subito dopo, così diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Dunque, vediamo che cosa troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi e magari insomma anche qualcosina dall'interno, perché ci sono parecchie cose interessanti in questa giornata. Poi naturalmente, come sempre, io vi rimando alle 7:20, quando interverrà il nostro Alessandro Milan e approfondirà un po' quello che troviamo sui quotidiani. In primo piano troviamo la vicenda del Vaticano per molti giornali, perché molti giornali hanno notizie e indiscrezioni su tutto questo. Inizierei da questo lato, dai due principali, poi, che sono Corriere della Sera e Repubblica, perché il titolo del Corriere della Sera è "Un cardinale tra i sospettati", mentre la Repubblica ha un'intervista. Ecco chi sono i corvi del Vaticano, insomma coloro che hanno fatto fuggire via dal Vaticano, hanno fatto uscire dal Vaticano alcuni documenti riservati. Parla una delle spie: Bertone ha troppo potere, noi vogliamo difendere il Papa, dice questa persona intervistata da Repubblica, intervistata da Marco Ansaldo. Due pagine di intervista, naturalmente persona che resta anonima. La sostanza, dice questa persona tra le altre cose, che la mente dell'operazione non è una sola ma sono più persone. Dice ancora: chi siete, gli chiede Marco Ansaldo. Ci sono quelli che si oppongono al segretario di Stato Tarcisio Bertone, che pensano che abbia troppo potere, quelli che pensano che Benedetto XVI sia troppo debole per guidare la Chiesa, quelli che ritengono che sia il momento giusto per farsi avanti. Questo il quadro dalla Repubblica che riguarda appunto la vicenda del Vaticano. Per quanto riguarda invece il governo, la Repubblica decide di puntare su questo stop di Monti sulla riforma del CSM e parla di iniziativa inopportuna. 5 righe per una riforma della giustizia disciplinare uscita con tanto di timbro e protocollo da Palazzo Chigi e firmata da Antonio Catricalà. Quindi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio firma un'ipotesi di riforma del CSM, di revisione della giustizia disciplinare per i magistrati, e il Premier Monti la boccia in un comunicato. Questo secondo quanto riporta la Repubblica. Formigoni nella bufera, centropagina, non cedo ai ricatti. Si parla ancora delle rivelazioni di Daccò, naturalmente, il governatore lombardo inguaiato dalle confessioni. Usciranno altre cose, ma sono solo falsità. Il commento di prima pagina a firma di Piero Colaprico a proposito di questo, ed è un'analisi: barche con guaglie ricevute, tutte le bugie del Celeste. Il Celeste, come sapete, è, come forse sapete, è il soprannome proprio di Roberto Formigoni. Le mappe di Ilvo Diamanti, quella del lunedì, è dedicata a Luca Cordero di Montezemolo e si intitola "L'appuntamento mancato di Montezemolo". Ci sono dei titoli naturalmente anche sul massacro in Siria, la tensione che sale tra Stati Uniti e Russia, come abbiamo visto poi dalle notizie della notte, in parte tutto questo si è ricomposto. E poi un titolo su Cannes: Garrone fa il bis, il Grand Prix a reality, come abbiamo raccontato poco fa nel giornale radio. Come si diceva, l'apertura del Corriere della Sera: un cardinale tra i sospettati è un italiano. Si legge sul Corriere: il maggiordomo arrestato sta parlando, ed è da questo che emerge tutto ciò. Si allarga l'inchiesta del Vaticano sui corvi dopo l'arresto dell'aiutante di camera del Papa, un cardinale tra i sospettati, e il pontefice che dice: siamo in una nuova Babele. Alcuni dettagli sulle indagini che sta portando avanti la Chiesa, che si stanno portando avanti in Vaticano: portate via 4 casse dalla casa di Gabriele, non ha agito da solo, scrive Gianguido Vecchi. E poi un commento di Vittorio Messori: la forza tranquilla scambiata per apatia che guida il pontefice. E a centropagina, a proposito, insomma, vi abbiamo detto della reazione di Formigoni, ve l'abbiamo raccontata nel giornale radio, è il... è la cosa sulla quale titola Repubblica Oggi, che dice: non cedo ai ricatti. Ebbene, a centropagina e dice anche: usciranno altre cose, ma sono solo falsità. Comunque, che siano falsità o no, escono altre cose, perché il Corriere della Sera a centropagina ha un pezzo dedicato a questo. Il bonifico di Formigoni alla grande villa di Daccò comprata in Sardegna. Il presidente della Lombardia Roberto Formigoni, nella primavera 2011, riporta il Corriere, versò 1.100.000 euro all'amico e coinquilino Alberto Perego, che li usò per comprare una villa in Sardegna da Daccò. E appunto il governatore che dice: non lascio, gli attacchi falliranno. Poi c'è una sorta di ritratto, scusate, di appunto Alberto Perego, l'amico del Celeste, tra incarichi e affari di Mario Gerevini e Simona Ravizza. A centropagina, grande foto di Ezedal, il vincitore del Giro d'Italia, il Giro Premio un canadese nel giorno di Milano. Poi la condanna del regime siriano da parte delle Nazioni Unite. E da segnalare che su Cannes il titolo è: e Moretti dimenticò Hollywood, Palma d'oro ad Haneke, a Garrone il Grand Prix della giuria. E anche una storia che arriva da internet. Ci truffano così: una 12enne antibank conquista la rete. Oddio, arriva da internet, insomma è un video che è stato postato su internet e che sta avendo un grande successo. Veniamo alla Stampa. La Stampa, oltre ad un'apertura dedicata alla Siria, scontro all'ONU sulla Siria, questo è il titolo, intervista con Terzi, tra l'altro, con il ministro degli esteri: superato il limite, dice Terzi, servono corridoi umanitari. In alto un titolo dedicato al prossimo piano del governo: scuole, caserme e trasporti, arriva il piano città. E quindi una novità che troviamo qua sulla Stampa. Per entrare nel dettaglio, la spinta del piano città: 72.000 alloggi popolari, oggi le proposte, i primi interventi a Roma, Firenze, Verona e Bari. Che cosa si prevede? Si prevede la rigenerazione di aree urbane degradate, la valorizzazione di aree demaniali dismesse, la creazione di alloggi sociali, la ristrutturazione delle scuole per migliorare l'efficienza energetica, l'ottimizzazione del trasporto pubblico locale. Questi i dettagli che emergono, almeno per il momento, da questo piano città. C'è anche un'intervista al vice ministro alle infrastrutture e trasporti Mario Ciaccia: cantieri al via già a giugno, tra i finanziatori anche comuni e privati. Grande foto a centropagina per Matteo Garrone e per il suo reality. Le due foto di sport sono dedicate ad Alonso, che è terzo ma vale oro perché va in testa alla classifica mondiale, e poi la vittoria, appunto, un canadese a Milano, la vittoria del Giro d'Italia. Naturalmente c'è un titolo, come potrete immaginare, naturalmente dedicato anche alla vicenda del Vaticano. Il Messaggero: Titolo di apertura: un cardinale guidò il corvo. L'inchiesta punta sui mandanti. Il Papa: viviamo una Babele. Quindi, se il Corriere della Sera riportava addirittura gli interrogatori, in parte, insomma, in discrezione degli interrogatori del cameriere del Papa, se la Repubblica, un'intervista con uno dei corvi, il messaggero cita gli investigatori del Vaticano. Un cardinale ha guidato il corvo. Gli investigatori che si occupano della fuga dei documenti riservati sembrano non avere dubbi. Poi c'è la condanna alla Siria per la strage. Scusate ancora. Interessante il titolo, la scelta per quanto riguarda lo sport, perché il Messaggero e il Quotidiano di Roma. Zeman alla Roma il giorno della firma. Oggi il tecnico boemo, in scadenza di contratto con il Pescara, incontrerà i rappresentanti di Trigoria per arrivare alla firma dell'accordo che dovrebbe legarlo al club giallorosso almeno per la prossima stagione. Quindi il ritorno di Zeman alla Roma nel titolo del Messaggero. Altra storia interessante è quella di Capri, rivolta contro il caro agli scafi. Gli abitanti ieri hanno bloccato il porto. Il commento di prima pagina del Messaggero, l'editoriale è di Paolo Pombeni ed è dedicato al caso di Roberto Formigoni. La politica e l'etica e il caso Formigoni, questo l'inchiesta lombarda. Il Sole 24 Ore, Sole 24 Ore del lunedì, come sapete, ancora ampio spazio all'IMU con i calcoli, il versamento, le rate, l'imposta sugli immobili alla cassa per l'acconto, ecco il peso della nuova ICI. E però il titolo di apertura è: tasse e tariffe, imprese sotto tiro, aumenti medi del 15%. Per una piccola e media impresa il conto sale di 14.000 euro all'anno. Un hotel di 1.000 metri quadri con una rendita di 40.000 euro, fa qualche esempio, pagherà oltre 4.000 euro in più di IMU rispetto all'ICI versata nel 2011. I ritocchi ad IMU ed elettricità, per esempio, per un caseificio di 3.000 metri quadri valgono il 70% dei rincari. Insomma, ci sono anche parecchi esempi su chi paga e che cosa. Sulla spending review, le prime rilevazioni sui prezzi di riferimento di dispositivi medici e farmaci ospedalieri. Nella sanità una giungla di costi, sulle siringhe differenze di prezzo del 135%, sulle protesi fino a 12 volte. Da segnalare il web e i rapporti con i cittadini: ai siti dei ministeri in pagella solo la sufficienza, pezzo questo di Barbara Bisazza. E con questo, col Sole 24 Ore, chiudiamo questa occhiata alle prime pagine dei giornali. Ci ritroviamo tra poco con le notizie in breve. Prima edizione. 6:37, Italia in controluce. Italia in controluce. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco. I suicidi per motivi economici, soprattutto nel nord-est, sono effettivamente aumentati negli ultimi tempi o semplicemente se ne parla di più? La parola a Barbara D'Amico. Non è il conto in rosso, non è... è quando rimani completamente solo e nessuno, dico nessuno, ti dà una mano. Il fenomeno degli imprenditori suicidi è ormai definito allarme sociale, ma com'è possibile stabilire con certezza una correlazione tra le morti e la crisi economica? Secondo dati Eures, l'organismo statistico europeo, in Italia nel 2009 a togliersi la vita per il tracollo economico sono state 357 persone e nel 2010 362. Due terzi dei suicidi avvenuto nel nord-est, una concentrazione troppo alta secondo Fabio Piacenti, che ha curato il rapporto Eures per l'Italia. Questo numero è un numero effettivamente record, perché quando abbiamo esplorato i dati degli anni precedenti, i suicidi, diciamo, per motivi economici sono stati negli ultimi 10 anni sempre, diciamo, intorno a cifre comprese fra i 70, gli 80, i 100. Nel 2008 sono arrivati a 150, nel 2009 sono arrivati a 200. Quindi sono raddoppiati negli ultimi 2 anni. In realtà noi abbiamo avuto una crescita di quasi il 40%, il 37% rispetto agli anni precedenti. Quindi insomma questo effettivamente ci dava il senso di un incremento significativo del fenomeno. In Italia, per l'Istat, i suicidi sarebbero addirittura calati rispetto agli anni Ottanta, eppure dal 2012 32 capi azienda si sono uccisi. Tra loro anche Giovanni Schiavon, imprenditore edile che si è sparato un colpo in testa il 12 dicembre 2011 in un prefabbricato color crema a Peraga di Vigonza, in provincia di Padova. Motivi economici dietro il suicidio. Mario Bortoletto, amico di Schiavon e anche gli imprenditori edili, ha un'altra teoria sulla morte di Giovanni. Il Veneto è diverso, ma sa perché? Perché per un Veneto il lavoro è fondamentale e l'imprenditore veneto, il piccolo imprenditore, mette, sbagliando, il lavoro prima della famiglia. Ecco perché succede questo, perché il lavoro è importantissimo. Giovanni avanzava soldi, cioè dei crediti che non riusciva ad incassare, prima si è staccato e in un momento di sconforto ha fatto questo gesto. In Veneto l'identificazione tra famiglia e impresa è molto forte, perché il legame tra affari e vita privata è l'ingrediente base del modello Nord-Est, lo stesso che ha fatto la fortuna di imprenditori come Aia e Benetton e che ora però porta al suicidio molti capi azienda. Guido Lazzarini, professore di sociologia all'Università di Torino e per 10 anni docente a Verona. Carriera della persona e carriera dell'azienda sono un tutt'uno. Ed è tutto per oggi. Italia in Controluce torna alle 13.30. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Sono le 6.40 minuti, dunque passiamo al primo approfondimento della giornata, ossia le decisioni di questa nota delle Nazioni Unite in merito alla Siria dopo il massacro di bambini avvenuto a Hula, almeno 25 a quanto pare. Allora facciamo il punto con Anna Marino. Anna, buongiorno. Buongiorno Simone. A 2 giorni dal massacro di bambini nella città siriana di Hula, un bilancio di 100 vittime, come dicevi tu, un bilancio veramente pesante. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU si appella a tutte le parti in causa a cessare immediatamente ogni tipo di violenza e non cita espressamente il governo siriano. Sottolineiamo tutte le parti in causa. Questo ha fatto sì che anche Mosca, principale protettore del governo, firmasse. Si legge nel testo comunque la condanna al governo siriano. Questo uso della forza contro la popolazione civile costituisce una violazione della legge internazionale degli impegni presi dal governo siriano con la risoluzione delle Nazioni Unite, che prevede di cessare le violenze in tutte le sue forme. Infatti nel testo si sottolinea come i responsabili di questi atti di violenza dovranno renderne conto. Poi viene ribadita la richiesta al governo di Damasco di cessare immediatamente l'uso dell'artiglieria pesante sui centri abitati e di ritirare le truppe e l'artiglieria dai dintorni delle città. Si conferma anche il sostegno per la piena attuazione del piano di pace dell'inviato speciale dell'ONU in Siria, Kofi Annan, che ricordiamo oggi arriva a Damasco. Comunque, nel frattempo, il governo siriano, lo ricordiamo, continua a respingere ogni attribuzione della strage di Hula e annuncia una commissione d'inchiesta. I ribelli, l'altra parte chiamata in causa, dell'esercito siriano libero, annunciano rappresaglie perché dicono non è più possibile rispettare il piano di pace Annan. Intanto è salito a 33 morti, almeno 33 morti, tra i quali 7 bambini, il bilancio delle vittime dell'offensiva governativa di ieri a Hama, lo ricordiamo, nel centro della Siria. Questo è un dato dell'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. E questa organizzazione dice che dall'entrata in vigore del cessate il fuoco il 12 aprile scorso sono praticamente 1.881 le persone, tra cui 1.260 civili, uccise in Siria. Grazie alla nostra Anna Marino per questi aggiornamenti. Noi cambiamo argomento e andiamo in Italia. O meglio, torniamo in Italia, torniamo alle cronache dal terremoto, finale Emilia, epicentro, si tenta un ritorno alla normalità, resta l'emergenza lavoro tra le altre cose. Il sindaco Fernando Ferioli al microfono di Francesco Riccardi lancia un appello al governo per aiuti immediati. qua noi non siamo abituati, come si può guardare anche dal fatto che abbiamo riaperto in fretta e furia il più possibile quello che era la zona rossa, quindi stanno già riaprendo le prime attività commerciali, stanno riaprendo i primi bar, in qualche modo si vede un pochino di luce da questo punto di vista. Il governo regionale sta insieme a quello provinciale, che è la protezione civile, sono quelli che ci stanno dando le risposte immediate su quello che è la situazione di gestione dell'emergenza. È stato appena deciso da pochi giorni, cioè anzi da subito dopo 2 o 3 giorni dalla provincia di Modena, di dare 6 milioni di euro per la ricostruzione delle scuole superiori. Qui noi non chiediamo soldi, noi chiediamo di rimettere su i capannoni, rimettere su le attività produttive e con quel lavoro pagare nuove tasse e pagare anche la nostra ricostruzione. Per adesso noi abbiamo bisogno solo di credere in noi stessi, in cui ci crediamo, e ricostruirci da soli. Dopodiché abbiamo bisogno però dei mezzi per farlo, e questo naturalmente deve arrivare dal governo centrale. Dal primo decreto il rinvio di un anno del pagamento dell'IMU per gli strutture inagibili. Sinceramente mi sembra una discreta presa in giro, in un momento in cui a qualcuno è stato battuto il capannone e dicono non pagare l'IMU quest'anno, ce la paghi quest'altro anno. Quindi noi abbiamo bisogno di risposte subito, perché sennò c'è rischio anche che qualcuno pensi a non ricostruire il proprio capannone, la propria struttura produttiva all'interno del nostro comune o della nostra zona o delle zone colpite dal terremoto. Vuoi le multinazionali, vuoi anche le grandi industrie. Noi potremmo anche rimettere le persone dentro le case, ma se poi non gli diamo il lavoro che avevano prima o la struttura importante, produttiva che c'era prima, saranno disoccupati. Sono le 6.45, prima della viabilità, una notizia appena battuta, c'è un nuovo blitz della polizia contro il calcio scommesse, agenti di squadre mobili del servizio centrale operativo stanno eseguendo una serie di arresti e perquisizioni in Italia e all'estero nei confronti di soggetti appartenenti, si legge, ad un'organizzazione transnazionale dedita alle combin degli incontri di calcio. Naturalmente aggiornamenti appena ne avremo, intanto sentiamo cosa succede su strade e autostrade. Prima edizione. Le 6.47 minuti. Da quel che si apprende, da quel che riferisce l'ANSA, ci sono anche calciatori di Serie A tra i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Cremona nell'ambito di una nuova inchiesta, una nuova fase dell'inchiesta sul calcio scommesse. Maggiori aggiornamenti più tardi. Adesso parliamo delle elezioni, di quelle politiche del 2013. Torna a farsi sentire il mondo dell'associazionismo cattolico, che si era riunito a Todi, presenta oggi un manifesto con un chiaro messaggio per la politica. Al microfono di Katia Caramelli, Andrea Olivero, presidente delle ACLI. Il principale messaggio è che i cattolici italiani che si sono già ritrovati a Todi, ma anche da più tempo lavorano nelle loro organizzazioni insieme, sono oggi una forza interessata al cambiamento e a dare un segnale di fiducia al Paese. Però c'è bisogno in questa fase di andare ad affrontare alcuni nodi cruciali per ripartire e crescere, nodi che devono vedere un coinvolgimento forte e netto di tutte le forze sociali. Noi partiamo dall'assunto che il cambiamento non può avvenire soltanto dalla politica, dalle istituzioni, ma il cambiamento deve in qualche modo anche tener conto di quanto la società civile si è sviluppato, di quanto le organizzazioni sociali stanno facendo. In particolare chiediamo innovazione e proponiamo concretamente innovazione nell'ambito del lavoro e rispetto ai temi della sussidiarietà, cioè della partecipazione dei cittadini in forme nuove anche all'allargamento dello spazio pubblico, così come chiediamo che si proceda in tempi sufficientemente rapidi a una nuova legge elettorale. Il quadro politico da Todi è molto cambiato, anzi c'è chi sostiene che Todi abbia dato anche un grande contributo al cambiamento. Che cosa ci sarà dopo? Ci sarà una Todi 2? Avete deciso cosa fare di Todi? Certamente Todi è stata significativa, ma io credo non tanto per far cadere il governo Berlusconi e avviare il cambiamento, quanto per indicare il fatto che c'era bisogno di un'accelerazione del processo. Il fatto che lo dicessero anche i cattolici ha contribuito appunto a far assumere le decisioni a quanti avevano appunto questa responsabilità. Certamente siamo consci anche di questo nostro compito. Oggi vogliamo rilanciare, ma vogliamo rilanciare a partire non tanto appunto dalle ipotesi di un nuovo partito. Le nostre sono organizzazioni sociali, sarebbe paradossale se si trasformassero in soggetto politico, ma quanto piuttosto a rendere chiara una cultura politica che in questo momento noi riteniamo non sia rappresentata. Certamente ci mettiamo a disposizione di tutte le forze politiche che fossero interessate a discutere con noi sul come dare rappresentanza a questa cultura politica. Non abbiamo pregiudizi, ma certamente abbiamo idee, ed è per questo che partiamo da un manifesto. D'altra parte credo che i cittadini italiani oggi siano ben poco interessati alle formule, ai partiti nuovi o presunti tali, ma sono interessati a vedere come quanti si candidano a guidare la politica sapranno o vogliono comunque affrontare le grandi sfide del lavoro, del welfare che sta riducendosi, di una società civile sempre di più impoverita. Tra gli arrestati nella nuova inchiesta sul calcio scommesse ci sarebbe il capitano della Lazio, vice capitano della Lazio Stefano Mauri. E con questo chiudiamo aggiornamenti nel GR. Grazie a Peter Bescapè in regia, Diego Rovelli in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia.